Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani ad una nuova puntata di Salva Danaio. Vi ricordate il caos negli uffici postali italiani di circa 3 settimane fa, quando era diventato impossibile pagare bollettini, ritirare la pensione, inviare raccomandate? Un blocco originato dal malfunzionamento del sistema informatico, provocato appunto da un guasto della nuova piattaforma che aveva rallentato le operazioni di tutta la penisola, determinando disagi a non finire per migliaia di utenti, tanto da far scendere in campo anche l'autorità per le comunicazioni, che aveva molto duramente definito inaccettabile l'accaduto e aveva chiesto alle Poste di fare immediatamente chiarezza. Sul piede di guerra erano scattate anche le associazioni dei consumatori, che avevano invitato Poste Italiane ad aprire un tavolo di conciliazione per definire le possibilità, per definire appunto delle modalità di risarcimento a tutti coloro che avevano subito dei danni. E così venerdì scorso Poste Italiane ha incontrato le associazioni dei consumatori e ha definito l'intesa con loro, definendo anche le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di conciliazione per il rimborso a favore di questi cittadini, appunto, che hanno subito disagi economici e danni economici per non aver potuto eseguire nelle loro operazioni allo sportello. E allora, che tipo di rimborsi saranno garantiti? Quale procedura dovrà essere seguita e quali sono anche i tempi di rimborso? C'è tempo per presentare la domanda a partire dal 1 luglio fino alla fine dell'anno? Stamattina ci racconteranno tutto. Intanto Romolo Giacani, responsabile di Poste Italiane per i rapporti con le associazioni dei consumatori, che saluto. Giacani, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno. E poi abbiamo una grande associazione dei consumatori con il segretario nazionale Pietro Giordano, Adiconsum. Buongiorno segretario, benvenuto. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Raccontateci di nuovo se siete stati fra i malcapitati di quel disastroso fine settimana. Chiaramente, come dire, noi lo avevamo raccontato quello che era successo e il tutto si era concretizzato soprattutto nel giro di un venerdì e un sabato, ma poi appunto i disagi sono proseguiti ancora nei giorni successivi, e per ripristinare completamente, nonostante gli sforzi fatti da Poste Italiane, che sono stati davvero molti, per ripristinare la situazione ci è voluto qualche giorno, e a prescindere da chi non ha potuto ritirare la pensione, in realtà i danni economici più rilevanti sono stati quelli di chi per esempio non ha potuto pagare la rata di un prestito, piuttosto che non ha potuto inviare delle raccomandate, piuttosto che non ha potuto pagare multe o altre bollette. Quindi insomma la situazione è piuttosto eterogenea. Oggi cercheremo di ricostruirla e cercheremo soprattutto di capire cosa succederà nei prossimi giorni, se i rimborsi sono stati fissati in maniera così ugualitaria per tutti, oppure se ci saranno degli scaglioni a seconda della circostanza nella quale si è capitati. Allora, vi ricordo ancora che potete intervenire all'800 24 00 24, oppure scriveteci al 349 238 6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Prima di partire, ovviamente, andiamo un po' a monitorare la borsa, che non ci fa mai mancare le novità. Oggi è una giornata negativa di nuovo. Per la verità ci si aspettava una reazione più brillante dalle borse europee dopo la decisione della notte da parte del Parlamento greco di dare la fiducia al nuovo governo greco, che è appunto un nuovo governo formatosi dopo il recente rimpasto. Un voto, peraltro, quello che si è avuto stanotte, preludio al lancio di un nuovo piano di austerità che questo nuovo governo dovrà apprestarsi a varare entro pochi giorni, perché se non c'è questo nuovo piano di austerità da almeno 28 miliardi di euro, la comunità internazionale non potrà sbloccare la nuova tranche di aiuti che appunto Atene attende. Sono giornate cruciali e su questa incertezza il mercato preferisce muoversi con cautela. Abbiamo un ribasso di Parigi dello 0,49%, per la verità ieri poi le borse sono andate piuttosto bene, quindi oggi qualche operatore per non saper né leggere né scrivere, come si dice, preferisce passare subito all'incasso. Francoforte meno 0,07, Londra meno 0,47, Milano è la piazza più pesante, perde lo 0,58%. Per colpa di chi? Intanto per Fondiaria, che scende di nuovo di quasi 4 punti in attesa della pronuncia di antitrust di Consob e ISVAP sull'ingresso di Unicredit. Mediaset meno 2, il gruppo da qualche giorno sta ricevendo continue bocciature da parte di molti analisti. Ieri era stata Morgan Stanley a rivedere al ribasso il prezzo obiettivo, oggi è toccato invece a Barclays e a Société Générale a rivedere la loro opinione in termini negativi sul titolo. In calo Mediobanca dell'1,89%, A2A meno 1,72, Prismian meno 1,63. Abbiamo un ribasso di un punto e mezzo anche per Prismian, per il Banco Popolare e per Mediolanum. In rialzo invece Ansaldo più 2,43%, il nuovo amministratore di Finmeccanica Giuseppe Orsi ieri in una presentazione ai giornalisti non ha incluso le autorità civili appunto nel piano di riorganizzazione aziendale, specificando che non rientrano nel core business e che quindi verranno valorizzate il mercato. Allora si aspetta qualche decisione sulla controllata Ansaldo, quindi partono le speculazioni, il titolo cresce appunto di 2,5 punti. Rialzo di un punto per l'Ottomatica, di Assorin più 0,5 e nel più 0,46%. Arretra l'euro sul dollaro, stamattina la moneta unica europea aveva superato 1,44, sul dollaro adesso ci ripensa e quota 1,43,63 sul biglietto verde. Per la borsa è tutto, andiamo al tema di oggi e sentiamo un po', ripercorriamo quello che è accaduto qualche settimana fa negli uffici postali italiani. Italiani, per tutte le vittime di quei disagi, di quei giorni, sono pronti i rimborsi. Rimborsi in vista per chi è stato vittima del blackout informatico che ha bloccato numerosi uffici postali all'inizio del mese. Tra qualche giorno sarà possibile presentare la domanda di risarcimento presso le poste o presso le associazioni dei consumatori interessate. In un incontro con le associazioni dei consumatori, Poste Italiane ha definito infatti modalità e tempi per la presentazione delle domande di conciliazione per il rimborso a favore dei cittadini che hanno subito danni a causa dei problemi informatici. Tutti coloro che sono stati coinvolti nei disservizi postali e che hanno subito un danno economico documentato relativo all'impossibilità di effettuare un pagamento, di ritirare il contante o di spedire pacchi e corrispondenza o di altri danni verificabili, possono essere risarciti attraverso un processo di conciliazione gratuito gestito dalle parti, sia a livello nazionale che nelle varie regioni. I cittadini interessati possono richiedere il rimborso a partire dall'1 luglio e fino al 31 dicembre, consegnando le domande direttamente negli uffici postali o presso le associazioni dei consumatori. I moduli sono a disposizione negli uffici postali, presso le sedi delle associazioni e sui siti internet di Poste Italiane e delle stesse associazioni. È stata inoltre decisa l'adozione di alcune misure capaci in qualche modo di rappresentare le scuse di Poste Italiane verso i pensionati over 65 che hanno subito gravi disagi a causa dei disservizi. L'azienda ha offerto l'apertura di un conto Banco Posta Plus, gratuito per un anno, o in alternativa la stipula di una polizza assicurativa contro gli infortuni della durata di 3 mesi. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Vedo già diverse prenotazioni e allora cercheremo di aprire al più presto i microfoni ai nostri amici che ci seguono da casa. Ma Romolo, Giacani, volevo subito fare una precisazione perché nella nostra scheda non siamo stati corretti al 100%. La modulistica per presentare le domande di risarcimento non è, per la verità, ancora ultimata e pronta, però lo sarà, credo, da quando tutta l'operazione partirà il 1 luglio, mi sbaglio? Sì, è così. Stiamo lavorando sulla modulistica, chiaramente, per rifornire gli uffici e allestire il sito internet. Comunque già oggi ovviamente ci sono arrivati anche noi dei reclami e li accoglieremo, anche se non sono fatti nel modulo preciso, insomma. Certo. Quindi dalla prossima settimana saranno a disposizione i moduli, sarà a disposizione soprattutto un'informativa presso gli uffici postali in cui ricorderemo ai clienti che appunto possono presentare questa domanda, possono richiedere il modulo allo sportello. Ecco, specifichiamo anche un'altra cosa, non sono stati fissati, come dire, dei tetti economici che stabiliranno, diciamo, una immediatezza nel rispetto al danno economico che si è subito. Ci sarà questo tipo di rimborso, ogni situazione, se non ho capito male, verrà valutata singolarmente? Sì, è corretto. Non abbiamo voluto fissare dei dei tetti, delle griglie prestabilite, proprio per avere la possibilità di esaminare caso per caso e quindi valutare esattamente il danno provocato. Quindi questa è stata una richiesta delle associazioni che noi abbiamo accolto, quindi non c'è il tetto dei 600 euro che è normalmente il tetto di competenza delle commissioni di conciliazione che sono in essere già da una decina d'anni e analizzano i reclami per i disservizi postali. Qui non ci sarà tetto, andremo caso per caso, valuteremo e daremo il rimborso in base al danno provocato. E ecco, gliel'ho chiesto questo perché mi ricordo che quando abbiamo fatto l'altra trasmissione proprio in concomitanza del blocco degli sportelli che c'era ancora nel famoso fine settimana appunto il famoso fine settimana appunto di blackout informatico, c'era un'associazione dei consumatori che aveva fatto una richiesta precisa quantificando determinati bonus appunto da erogare in virtù di determinati danni. Invece tutto questo non c'è. Pietro Giordano, segretario nazionale della Diconsum, e quindi chiaramente anche voi siete ovviamente al tavolo di conciliazione con le Poste, che non nasce adesso per il disagio provocato dal blackout informatico di 3 settimane fa, ma in realtà ha una storia un po' più lunga, se non sbaglio, no? Sì, una storia consolidata che ha dato ottimi risultati, perché la conciliazione è l'unico strumento, crediamo noi, che può dare soddisfazione ai consumatori, perché è uno strumento agile e al contempo rapido. Se si va da un avvocato, se si va da alcune realtà non proprio trasparenti e cristalline, i costi aumentano, i tempi di soluzione della controversia aumentano e quindi c'è un danno nei fatti da parte dei consumatori. A questo proposito voglio proprio dire: attenti, perché già circolano modulistica, ma la modulistica è, come dire, l'amo per attirare il consumatore, da parte di sedicenti avvocati o sedicenti studi legali o sedicenti associazioni dei consumatori, appunto, che comporterebbe un aumento di costo per i consumatori che si sono trovati a subire dei disservizi da parte di Poste. Allora, quindi diamo subito questa, come dire, indicazione concreta: qualora siate interessati appunto ad ottenere un indennizzo, un risarcimento, perché protagonisti malcapitati del blackout informatico delle Poste di qualche settimana fa, questa modulistica non c'è ancora, quella ufficiale frutto del tavolo di conciliazione fra Poste e un bel gruppo di associazioni dei consumatori, quando sarà pronta o andate all'ufficio postale, Giordano mi corregga se sbaglio, oppure poi diamo proprio anche i siti delle associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto l'accordo di conciliazione con le Poste, quindi dai siti delle associazioni dei consumatori si possono scaricare i moduli. Sì, e l'avvio della conciliazione è gratuita secondo questo sistema, mentre se si incappa in qualche, come dire, non li definiamo banditi, probabilmente alla fine, e speculatori, alla fine si finirebbe col pagare una parcella o non so cos'altro. Infatti, comunque, questo è veramente sconsigliato. La cosa più semplice è andare direttamente allo sportello postale, appunto, probabilmente lì saranno attrezzati per darci, speriamo, tutta l'assistenza possibile. Oggi faremo fare una promessa a Romolo Giacani anche in questo senso, ma sono sicura appunto che funzionerà tutto bene. Noi ci dobbiamo fermare già per la prima pausa, dopodiché riprenderemo la nostra trasmissione cominciando a sentire anche i nostri ascoltatori. Ognuno ci racconterà il suo caso e quindi cercheremo di capire se ci sono i margini, così se sia l'esponente delle Poste Italiane che l'esponente dell'Associazione dei Consumatori ci potranno dare un'idea se questi casi sono appunto legittimati a chiedere appunto il risarcimento, l'indennizzo alle Poste per i disagi subiti nel famoso weekend del blackout informatico. A tra poco. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Allora, vi ricordate che cosa è successo all'inizio di giugno, quando a causa di un blackout informatico praticamente si è fermata l'attività di moltissimi sportelli postali su tutto il territorio italiano? Quella situazione è stata ripristinata nel giro di qualche giorno, ma naturalmente sportelli fermi, tanti danni, tanti disagi e tanti danni economici anche per molti utenti che non hanno potuto eseguire diverse operazioni. E allora che cosa è successo? Che un gruppo di associazioni dei consumatori ha chiesto di attivare parlamentare. Il tavolo di conciliazione con Poste Italiane è nella piena operatività, è pronto adesso. Questo tavolo praticamente ha prodotto un risultato, naturalmente, e dal 1 luglio saranno pronti i moduli per poter far richiesta degli indennizi qualora si ritenga che si sia subito appunto un danno economico rispetto a questo blocco, ed effettivamente molti consumatori hanno ragione di chiedere questi risarcimenti a seconda del danno subito. Adesso faremo anche qualche esempio. Volevo però prima rispondere ad un ascoltatore che ci ha chiamato dicendoci che stiamo facendo disinformazione, perché dicono la conciliazione, dice questa persona, Lorenzo, lo saluto, la conciliazione la fanno anche gli avvocati che sono dei mediatori delle camere di commercio, non solo delle associazioni dei consumatori. Io non so lei che puntata abbia sentito, ma nessuno ha detto questo. Cioè nessuno ha detto, lo diceva prima Pietro Giordano di Adiconsum, non ha detto che gli avvocati sono dei banditi come lei ci sta dicendo, ha detto che in questo frangente, in questa situazione, qualcuno si sta già proponendo come persona che può tutelare i consumatori in questa situazione, proponendo già della modulistica per fare delle richieste di risarcimento. Siccome la modulistica ufficiale non è pronta, e ce lo stanno dicendo anche gli esponenti delle Poste Italiane stamattina, abbiamo definito banditi solo coloro che stanno approfittando di un po' di consumatori per cavalcare l'onda di questo disagio, come spesso capita in questa situazione come in tante altre. Per cui Lorenzo, si vada a riascoltare la prima parte della trasmissione, nessuno ha assolutamente definito gli avvocati come banditi. Giordano ha parlato di alcune figure che si approfittano in questo momento di questa situazione, punto. Allora, Romolo Giacani, Poste Italiane, mamma mia che sudata stamattina che sto facendo, ci racconta un po', visto che avete già ricevuto dei reclami, come giustamente era naturale che accadesse, quali secondo voi potranno essere, come dire, i danni economici più importanti che arriveranno da questa situazione da risarcire? Perché ci sono stati appunto pensionati che non hanno potuto ritirare la pensione, alcune bollette che non si sono potute pagare. Secondo voi che cosa potrà, teoricamente accadere nelle prossime settimane come richieste di risarcimento che arriveranno? Così vi siete fatti un'idea? Sì, noi sulla base anche dei reclami pervenuti sia a noi sia alle associazioni, proprio nel tavolo di venerdì scorso abbiamo steso nel regolamento delle macro casistiche, diciamo, proprio per ricomprendere un po' tutti quelli che possono essere i disagi subiti dai clienti e quindi di conseguenza i danni da ristorare. Abbiamo parlato di impossibilità di effettuare un pagamento. È chiaro che il cliente ci deve in qualche modo dimostrare qual è stato il danno dovuto al fatto di non aver potuto effettuare il pagamento. Quindi, per esempio, se uno andava a pagare una bolletta che in realtà scadeva 20 giorni dopo, lì non ha subito un danno per il fatto che la bolletta non ha potuto pagarla nei tempi. Ecco. Esattamente. Cioè, lì si parla di disagio. È chiaro che noi in questo frangente, e colgo l'occasione per scusarmi nuovamente a nome dell'azienda, di disagi ne abbiamo creati a molte persone, a molte di più di quelle però a cui abbiamo creato in realtà un danno. Allora, con la procedura di conciliazione noi andiamo a individuare i danni, sui disagi chiaramente il discorso è diverso. Quindi parliamo per esempio dell'impossibilità di spedire un pacco o una raccomandata. Anche qui, se c'è una connessione diretta tra l'impossibilità a effettuare questo servizio e il danno lamentato dal cliente, noi andremo al rimborso. La scadenza per esempio di multe, che chiaramente determina un pagamento tardivo e quindi un raddoppio della sanzione, in questi casi ovviamente noi andremo a rimborsare, a tutelarli integralmente. Allora le faccio sentire Giacani, poi torno anche a Pietro Giordano per capire se le associazioni dei consumatori si ritengono pienamente soddisfatte anche del risultato ottenuto in questa conciliazione. Peraltro prevedo anche settimane di lavoro piuttosto importante, perché non credo che arriveranno 10 richieste di risarcimento, credo che ne arriveranno molto di più, e certo che andarle a valutare una ad una sarà un lavoro anche piuttosto impegnativo. Allora, Francesco dalla provincia di Treviso, buongiorno. Pronto? Francesco. Sì, buongiorno. Niente, io ho sentito, seguo la vostra trasmissione spesso e ho avuto un disguido proprio in quei giorni là, perché io pagavo. Pronto? Sì, sì, ci siamo, Francesco, ci dica, sì. Pago mensilmente una rata a Equitalia a fine mese praticamente, e un importo non esagerato, sono 102 euro. Però insomma, se si ritarda, Equitalia ci tira l'orecchio. Non so, ecco. Non so come si comporti adesso Equitalia, perché era proprio in quei giorni là, perché io la pago la pagavo sempre prima, due giorni prima, però quei giorni là avevo avuto un problema. È andato proprio a ridosso della scadenza. E oltretutto le lascio perdere cosa dicevano gli utenti. No, ce lo racconti, così già che ne gli raccontiamo un po' che cosa, perché le hanno fatto. Prima il signore parlava di banditi. No, adesso non esageriamo. No, ma non, anche il povero impiegato dietro allo sportello era non sapeva più cosa fare, perché 50 pensionati che aspettavano, anche altri che non le dico cosa è venuto fuori. Comunque non so come in questo caso come comportarmi. Cioè, certo, non Francesco, lì guardi, bisognerà intanto capire, andiamo a sentire subito magari intanto un'idea di Pietro Giordano rispetto a questo caso. Intanto bisognerà vedere se Equitalia gli andrà a contestare il fatto che Francesco ha pagato con ritardo questa rata mensile, e quindi magari forse a Francesco conviene aspettare un po' per capire poi se effettivamente gli conviene attivarsi con una richiesta di risarcimento a Poste. Al momento un danno economico non dovrebbe averlo subito, al momento non l'ha subito. Appunto, noi abbiamo chiesto che la domanda si prolunghi fino al 31 dicembre di quest'anno, proprio per questi motivi, per cogliere questi casi, nel senso che il ricorso va fatto, ma l'analisi andrà fatta rispetto anche ad eventuali multe che vengono erogate da parte di Equitalia. C'è da precisare una cosa: alcune associazioni dei consumatori hanno pensato anche di impattare Equitalia, proprio per i motivi che sono stati espressi, per vedere quale soluzione anche con Equitalia possiamo trovare ove accadessero fatti così importanti, perché l'ascoltatore, come dire, aveva una rata piccola, ma ci sono altri ascoltatori, altri cittadini che hanno anche, come dire, debiti nei confronti di Equitalia sostanziosi, e quindi le multe col sistema che attualmente vige in Equitalia possono, come dire, decuplicarsi al momento in cui non si paga in tempo una rata. Ecco, questo è uno dei casi che ci ha fatto decidere insieme a Poste Italiane di prolungare il tempo di presentazione dei ricorsi fino al 31 dicembre di quest'anno. Allora, no, anche perché tra l'altro sì, parlavamo dell'importo, 103 euro possono apparire un importo contenuto, ma anche per esempio, non lo so, si sta pagando la rata per la lavatrice nuova ed è un importo di 40 euro, ma se non si paga quella rata, la si paga in ritardo, a iscriversi, a essere iscritti nella famosa lista dei cattivi pagatori ci si mettono 2 secondi. La rata è piccola, ma il danno che ne consegue poi è enorme, perché non possiamo più fare richieste di altri prestiti, per cui in realtà ecco perché è una situazione da valutare caso per caso e con grande delicatezza. Romolo Giacani ci raccontava, l'ascoltatore, di quello che è successo in quei giorni anche ai vostri impiegati, che effettivamente hanno rischiato uno a uno l'esaurimento nervoso per affrontare non solo il disagio informatico che dovevano gestire in quel momento, ma anche l'ira di tutti gli utenti che in quel momento ovviamente non potevano fare niente. So che proprio per gestire quella situazione avete organizzato un bel po' di straordinari per i vostri impiegati e gestito milioni di operazioni, avete stabilito addirittura il record assoluto dell'operatività in pochi giorni. Sì, infatti anche in questa occasione devo dire mi sento assolutamente di essere solidale con i colleghi e di ringraziarli, perché l'impegno negli uffici postali è stato veramente tanto e chiaramente anche loro si sono trovati di fronte delle situazioni. Se qualche ascoltatore ha voglia, nella pagina Facebook dell'azienda abbiamo chiesto ai nostri colleghi di raccontare anche degli episodi, diciamo, simpatici. Ci sono direttori degli uffici postali che hanno anticipato la pensione anche, diciamo, proprio di tasca loro, quindi insomma degli episodi veramente anche che fanno un po' capire che in realtà appunto il disagio si è verificato un po' per tutti, non c'è stato una diciamo un fronte dei buoni e un fronte dei cattivi, tutti quanti ci hanno messo il massimo della buona volontà per risolverlo, e come diceva lei siamo arrivati al paradosso che il venerdì successivo al malfunzionamento abbiamo toccato il record delle operazioni postali svolte in una giornata, siamo arrivati a 9 milioni e mezzo, e questo appunto grazie all'impegno dei colleghi che hanno prolungato gli orari, hanno raddoppiato i doppi turni, hanno aperto alle 6 della mattina. Infatti, i sudori freddi ce li avete avuti anche voi e come, tra l'altro. Allora, adesso ci fermiamo, abbiamo suggerimenti per chi è in viaggio, poi sentiremo Francesco dalla provincia di Roma. Mi piacerebbe affrontare un attimo, approfondire anche il tema effettivamente di tutti i pensionati che non hanno potuto riscuotere la pensione, e per chi prende delle cifre minime, magari stare 3 giorni senza liquidità in tasca non è stato proprio una bella situazione. Molte associazioni dei consumatori avevano denunciato anche questo. Mi chiedo se lì ci sia la possibilità per ottenere un risarcimento e di quale tipo. Mi pare, lo abbiamo detto anche nella nostra scheda, che Poste Italiane ha studiato una forma di indennizzo particolare per queste figure. Poi ne parleremo tra poco. Allora, andiamo a Francesco da Roma per sentire un po' cosa gli è successo. Non ha potuto pagare la bolletta della luce, Francesco, in quei giorni del blackout informatico delle Poste? È pronto? Sono sì. In linea? Sì, è in linea, Francesco, buongiorno. Sì. Allora, ecco, dicevo che la Francesco, mi scusi, può abbassare la radio, per favore, perché sentiamo un ritorno terribile. Grazie. Lei non ha idea cosa succede alle nostre cuffie, mi sfonderò i timpani prima o poi. Magari sarebbe un bene per l'umanità. Ci allora, dica, Francesco. Cadeva la bolletta dell'Eni il 3, mia sì. Moglie è andata, c'era non la folla di più, aveva un numero di numero 300 rotti, va bene, comunque allora abbiamo rimandato il giorno dopo a ugualmente folla, eccetera. Per farla breve, io ho chiamato l'Enel e la signorina del call center mi ha detto che come mora, se uno paga fuori dopo un tot di giorni scadenza, era un centesimo al giorno. Ma a questo punto poi si è sbloccata la situazione, poi mia moglie ha pagato questa bolletta alla lottomatica, perché fanno sì, infatti alternative ce n'erano effettivamente. Mi diceva mia moglie che c'erano i carabinieri che hanno preso i documenti, però io di chi? Non posso andare a fare una... Ma Francesco, i documenti di chi hanno preso i carabinieri? Dei presenti. Di quali presenti? Di quelli in quel giorno all'ufficio postale che non potevano pagare? Bah, sì. Adesso, Giacani, addirittura in qualche sportello si sono presentate le forze dell'ordine? Probabilmente se c'è stata qualche denuncia da parte dei clienti, purtroppo ci sono stati anche dei casi di delle degenerazioni, vabbè, giustamente, certo, magari possono essere accadute. Allora, detto questo, Francesco, quello che gli possiamo dire, Giacani, così sulla base di quello che ho capito fino a questo momento, intanto di vedere se Enel gli contesterà questo ritardo e in che misura, no? Certamente, ecco. Anche perché appunto, come diceva il dottor Giordano, qualche associazione abbiamo visto che si sta muovendo anche nei confronti dei fatturatori, esatto, per cercare di evitare questo tipo di sanzioni. Anche perché ci sono tavoli di conciliazione anche con queste aziende, per cui la strada è aperta e si può fare con più facilità. Ecco. Poi ecco, per esempio, c'è stato da parte del MIUR un'iniziativa lodevole sicuramente in questo senso, perché ha allungato i termini di presentazione di una domanda per le scuole. Per il MIUR è il Ministero dell'Università, per fare delle richieste per esempio di partecipazione a concorsi e quant'altro, perché ci sono stati anche quei problemi lì, sì. Quindi allungando i termini di presentazione evidentemente ha dato la possibilità ai cittadini, ai consumatori di presentare la domanda anche nei giorni successivi. Ecco, l'iniziale scadenza. Quindi Giacani, sulla base delle testimonianze che abbiamo ascoltato fino a questo momento, l'idea è, dal 1 luglio, visto che da quella data saranno pronti i moduli per le richieste di indennizzo, non andate tutti all'ufficio postale in quel giorno, cercate intanto di stabilire se il vostro caso vi ha realmente provocato. Io capisco che è stato un disagio per tutti, quindi vorreste essere indennizzati solo per il fatto di aver perso ore all'ufficio postale e non aver potuto concludere l'operazione. Detto questo, però, prima di tutto vedete se con un ritardo del pagamento di una bolletta l'azienda vi contesta questo ritardo, ve lo quantifica, e quindi se il disagio è grande è chiaro che, Giacani, la richiesta di risarcimento va fatta, però magari cerchiamo anche di agire con un minimo di buonsenso e non tutti partiamo ad andare a scaricare i moduli per le richieste di risarcimento così tanto per fare un dispetto apposta. Questo magari lo suggerisco io. Che dice lei? No, assolutamente d'accordo, ovviamente sottoscrivo in pieno questa osservazione, ma penso anche il dottor Giordano. Sì, infatti, Giordano, che cosa facciamo, insomma? No, io sono perfettamente d'accordo, perché in questione di piccola entità economica è più il tempo che lo stesso consumatore perderebbe che il beneficio che ne trarrebbe. Quindi è chiaro, lì dove ci troviamo di fronte a situazioni gravi, come ad esempio quella dei pensionati o quella della presentazione della domanda di un concorso, una gara d'appalto, eccetera, eccetera, allora lì è il caso che si presenti la domanda di conciliazione. Guardi, leggo subito un caso di danno che potrebbe essere chiaramente rappresentato a Poste Italiane, e questo ascoltatore Raffaele, che è molto arrabbiato, ci scrive al 349-238-6666, secondo me può tranquillamente procedere con la richiesta di indennizzo. Non ho potuto versare in quei giorni, ci scrive, e per mancanza fondi non è passato il pagamento della carta di credito. Adesso la banca che gestisce la carta minaccia di iscrivermi fra i cattivi pagatori. Potrei risolvere tutto se Poste mi rilasciasse una dichiarazione. Non rispondono, non mi danno informazioni in merito. Giacani, questo credo che nei prossimi giorni potrà essere superato. Questo assolutamente lo risolviamo, o addirittura prima della conciliazione, nei casi per esempio di iscrizione alle liste, ci stiamo attivando, abbiamo dato informazione agli uffici di raccogliere le segnalazioni e inviarcele tempestivamente, perché quello effettivamente è una cosa su cui possiamo intervenire subito e senza creare ulteriori disagi al cliente. Allora, ci mancano pochi minuti prima dei saluti. Noi adesso, come dire, abbiamo potuto fare una trasmissione solo sulla base di quello che succederà nei prossimi giorni e di quello che è stato il risultato di questo tavolo di conciliazione tra Poste Italiane e organizzazione dei consumatori. Naturalmente monitoreremo anche nei prossimi mesi, cercando di capire effettivamente come questo tavolo funzionerà e quali saranno i risarcimenti più frequenti, appunto gli indennizzi più diffusi che i consumatori chiederanno. Detto questo, possiamo dare delle ultime raccomandazioni? Giacani, ci tenevo a così un po' sentire quella che è la vostra posizione su quei pensionati che non hanno potuto riscuotere la pensione, magari per qualcuno qualche problema c'è stato. Adesso chiaramente venirvi a dire: vi chiedo risarcimento perché non ho potuto fare la spesa che mi serviva in quei giorni, magari potrebbe essere un po' triste, con un po' di dignità forse le persone non si rivolgeranno a voi per questo problema. Però è chiaro che quella è la categoria che ha subito i maggiori disagi, questo ce lo siamo detto subito, ci è stato rappresentato dalle associazioni e lo abbiamo considerato all'interno dell'azienda. È chiaro che questo si innesta anche in una situazione tutta italiana, vorrei dire, perché purtroppo in questo senso abbiamo un record europeo del paese che paga il maggior numero di pensioni minime, in contanti. Ecco. E qui purtroppo è una, direi, una consuetudine, un modo di pensare, direi, di parecchi anziani che non vogliono accreditare la pensione su un conto corrente, nonostante ci siano varie possibilità, anche completamente gratuite, come il libretto postale. Infatti, devo chiudere, Giacani. Allora, magari ci ritorneremo su questo argomento, vedremo che cosa succederà prossimamente, quali saranno appunto i risarcimenti più diffusi, che emergerà solamente nelle prossime settimane quello che è stato il reale danno economico subito appunto dai consumatori per questo blackout informatico. Io intanto ringrazio Romolo Giacani di Poste Italiane, responsabile dei rapporti con l'Associazione dei Consumatori, per essere stato con noi, Pietro Giordano, segretario nazionale di Adiconsum. Salva Danaio torna domani, buona giornata a tutti. Salva Danaio.